Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buon sabato, una buona serata, gentili ascoltatori. Ben ritrovati all'ultima puntata per quest'anno di Nessun luogo è lontano. I saluti, gli auguri anche di buone feste vi arrivano da Gianmarco Ferronato che è in regia, Nadia Zemmitti che è in redazione, da parte mia che sono Giampaolo Musumeci, e vi ricordo anche le coordinate, sono sempre le stesse, per interagire con noi, commentare anche questa puntata, la mail nessunluogo@radio24.it, commenti un po' più brevi via sms al 349-238-6666, potete cinguettare su Twitter nessunluogo24 e infine concedervi un po' più di tempo per i vostri commenti sul profilo Facebook nessunluogo è lontano trattino Radio 24. E in questa puntata ultima del 2012 abbiamo deciso di concentrarci su un tema a noi piuttosto caro, chi ci segue lo sa, ci ritorniamo sopra periodicamente e andiamo in Kivu, est del Congo. In Kivu, regione dell'est del Congo, dove gli ultimi due mesi di cronache ci hanno consegnato una serie di eventi preoccupanti, ma non sorprendenti, perché alla fine, ahi noi, come spesso diciamo, la storia in quella remota regione africana continua a ripetersi. M23, questa sigla magari ai più non dirà moltissimo, è un movimento ribelle, l'ennesimo, sorto dalle ceneri del CNDP, il Consiglio Nazionale per la Difesa del Popolo, che nel 2008, guidato da Laurent Nkunda, fece tremare addirittura Kabila a Kinshasa. Ebbene, dopo alterne vicende, eccolo che ritorna fuori da questo cilindro congolese, da questo cuore di tenebra, da questa foresta inestricabile dove interessi di varia natura si vanno a in qualche modo a unire. Abbiamo gli interessi minerari di grandi multinazionali, abbiamo interessi di potenze straniere e dei paesi vicini, che ora è praticamente ufficiale, un rapporto dell'ONU ha detto chiaramente, Uganda e Ruanda hanno spalleggiato il movimento M23 appunto nell'est del paese. Questo M23, questo movimento ribelle, continua a essere, tra gli altri motivi, fonte di destabilizzazione per l'intera area. Allora cerchiamo di capire meglio chi sono e che cosa vogliono i ribelli dell'M23. La Repubblica Democratica del Congo, anche nota come Congo Belga o Congo Kinshasa dal nome della sua capitale, è il paese francofono più popoloso dell'Africa centrale. Tra il 1998 e il 2003, il Congo è stato al centro di quella che potrebbe essere definita la guerra mondiale in Africa e che l'ha lasciato nella morsa di una crisi umanitaria. I 5 anni di conflitto hanno visto le forze governative sostenute da Angola, Namibia e Zimbabwe scontrarsi con i ribelli sostenuti da Uganda e Ruanda. Dopo diverse guerre e ripetuti conflitti, nell'agosto del 2008 scoppiano pesanti scontri in Kivu, a est del paese, tra le truppe dell'esercito governativo e i combattenti fedeli al leader ribelle Tutsi, Laurent Nkunda, appoggiato non ufficialmente da Ruanda. Spodestato da Bosco Ntaganda, Nkunda viene arrestato nel gennaio del 2009 in Ruanda. Il conflitto si va così attenuando e le milizie del Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo, guidate da Nkunda, vengono reintegrate nell'esercito governativo congolese e riassegnate negli stessi luoghi nei quali già combattevano. Lo scorso aprile alcune centinaia di soldati hanno disertato l'esercito del Congo e si sono uniti agli insorti di etnia Tutsi, guidati da Bosco Ntaganda, dando vita a un nuovo gruppo di ribelli denominatosi M23, dal protocollo di pace firmato il 23 marzo 2009, ma da questi considerato fallimentare. Infatti, dopo l'emissione di mandato di cattura della Corte Penale Internazionale dell'AIA nei confronti di Ntaganda, e dopo che il capo del governo generale del Congo, Joseph Kaliba, ha fatto intendere che l'avrebbe consegnato alla giustizia, il leader dei ribelli ha disertato con un manipolo di fedelissimi nascondendosi a nord di Goma, la capitale della provincia al confine con l'Uganda. Proprio in questi giorni, le forze regolari della Repubblica Democratica del Congo e i caschi blu della missione delle Nazioni Unite nell'ex Zaire hanno attaccato con elicotteri le postazioni dei guerriglieri del gruppo M23, ancora attestati intorno a Goma. questa la storia e gli obiettivi dell'M23 in Kivu. Cerchiamo di entrare un po' di più nel merito della questione per capire quali scenari si potrebbero aprire nei prossimi mesi. Lo facciamo con Donatella Rostagno da Bruxelles, analista politico per EURAC, la rete di ONG europee per l'Africa centrale. Donatella, la prima domanda è questa: la storia in Kivu, nell'est del Congo, sembra ripetersi con continui gruppi ribelli che spuntano fuori dal cilindro, vengono poi reintegrati nell'esercito congolese, salvo poi riuscirne e rimettendo in crisi l'assetto della zona. Sì, Giampaolo, effettivamente hai ragione, nel senso che poi quando ci si occupa di questa zona per vari anni ci si rende conto che effettivamente la storia sembra ripetersi. Pensa che oggi si parla di una presenza di una quarantina di gruppi armati vari nell'est del Congo, quindi insomma questa storia può ancora ripetersi a lungo. Effettivamente quello che sta succedendo al momento è proprio questo, nel senso che adesso si parla di nuovo di dialogo di pace tra l'M23 e il governo di Kabila, il governo congolese, e il risultato di questo dialogo di pace dovrebbe essere di nuovo l'integrazione del gruppo M23 nell'esercito congolese. Com'è possibile che si possa pensare ancora una volta a un'integrazione di un gruppo ribelle nell'esercito quando, come dire, il presupposto dovrebbe essere avere un esercito con i crismi occidentali in cui un'integrazione di quella che era una volta una forza avversa poi no, porti realmente a integrazione, quindi un processo di pace, a rendere inoffensiva quella che era una minaccia? Secondo te perché si insiste su questa ricetta? Ma probabilmente perché effettivamente, sai, la domanda potrebbe essere quali sono le alternative. Io credo che effettivamente quella sia la risposta e la soluzione. Il problema è che ci vorrebbe poi dietro queste decisioni una volontà politica, sia soprattutto poi del governo congolese, di effettivamente mettere in pratica queste decisioni. L'integrazione vorrebbe dire integrare gli elementi dell'M23 nell'esercito, ma vorrebbe dire anche toglierli dalle zone in cui hanno agito come ribelli e metterli in zone diverse del Congo, farli passare attraverso una formazione molto profonda di quello che vuol dire passare dall'essere un ribelle a un soldato di un esercito, e a quel punto quindi reintegrarli nell'esercito con un ruolo effettivamente di far parte dell'esercito del paese e difendere il paese e non i propri interessi piccoli o regionali o provinciali. L'altro problema effettivamente è che ancora il Congo si basa molto su questa realtà di interessi etnici, interessi di tribù, interessi regionali, interessi provinciali, e quindi a questo punto è ovvio che è difficile passare da questa mentalità a una mentalità più nazionale di far parte di un esercito nazionale. Quindi diciamo che come risposta e come soluzione non sembra che ci possano essere delle alternative, d'altro canto però ci vuole effettivamente una vera volontà politica per farlo. Ecco, abbiamo toccato uno dei punti fondamentali, che è il fatto che l'ultimo reintegro di quelli che erano i ribelli del Sendepe sono poi rimasti nella zona di Goma, nella zona dell'est del Kivu, dove hanno continuato, come dire, non solo a alimentare quello che erano una rete fatta di risorse, di contatti, molto ragionevolmente anche nel vicino Ruanda e Uganda, ma hanno creato quasi una sorta di linea di comando parallela, per cui le unità, una volta ribelli in seno all'esercito congolese, godevano di ampissima autonomia. La ricetta a cui fai riferimento tu, quindi il dislocamento su altre regioni, dovrebbe in qualche modo spezzare questa catena viziosa, no? È questo il punto? Sì, assolutamente, e pare che ci siano dei casi effettivamente in cui alcuni membri di ex gruppi ribelli, per esempio del CNDP, che sono stati poi piazzati in altre zone del Congo, siano stati poi casi abbastanza positivi e che funzionino. Quindi sì, effettivamente il problema è, da un lato, poter permettere alla popolazione congolese del Kivu di vivere non in presenza ovviamente delle persone che fino al giorno prima le hanno minacciate, le hanno attaccate, le hanno violentate, la storia la conosciamo, quindi non c'è bisogno che vada più nel dettaglio in questo senso, e dall'altro lato anche tagliare certi legami che ci sono tra i gruppi ribelli, i gruppi armati che sono presenti nell'est e anche i paesi vicini. Ora non lo diciamo noi, ma l'ha detto il rapporto delle Nazioni Unite, il gruppo esperto delle Nazioni Unite, che questo gruppo armato M23 è sostenuto dal Ruanda e dall'Uganda, quindi questi sono legami evidentemente che bisogna rompere. Ecco, in questo circolo vizioso che ormai dura da anni nell'est del Congo, un non ruolo, o meglio un ruolo non è stato giocato in parte dalla missione MONUSCO, la missione dell'ONU. Proprio recentemente alcune alte cariche appunto delle Nazioni Unite hanno rilasciato interviste a agenzie dicendo che insomma c'è in fase di ridiscussione un po' il ruolo e anche il mandato della MONUSCO, di questa gigantesca, la più grande al mondo, 20.000 caschi blu in Congo, e che in Kivu hanno per esempio un mese e mezzo fa lasciato che la città cadesse in mano ai ribelli. Il ruolo di questa missione di pace dei caschi blu dell'ONU è stata molto controversa negli anni passati. Quali vie, quali possibilità vedi sul campo per cambiare? Perché così, insomma, diciamocelo chiaro e tondo, la missione non funziona. Ma senti, innanzitutto mi piacerebbe dire una cosa, anche perché è vero, la MONUSCO fino adesso ha dato dimostrazione del fatto che sul primo ruolo che dovrebbe avere, che è quello della protezione dei civili, che è previsto nel suo mandato, non è stata in grado, insomma, in alcune occasioni soprattutto, di farlo, e questo è vero. D'altro canto io però vorrei riflettere su una cosa, che il mandato della MONUSCO è un mandato di sostegno delle FARDC, cioè dell'esercito congolese. Quindi è vero che la MONUSCO fino adesso ha avuto grossi problemi per mettere in applicazione questo mandato, è anche vero che lavorare con un esercito che non è capace di difendere la propria popolazione è anche difficile, credo, per la missione delle Nazioni Unite, anche perché la missione delle Nazioni Unite non ha il mandato di attaccare e di iniziare degli scontri armati con i ribelli, ma di sostenere le FARDC e di proteggere la popolazione. Ora, sinceramente, io credo di essere tra quelle persone che dice che il mandato della MONUSCO com'è è un mandato abbastanza forte in realtà, è un mandato che prevede già la protezione della popolazione e che dice che la MONUSCO può anche entrare in scontri armati per proteggere la popolazione, quindi io non credo che sia un problema di mandato o di forza di mandato. Credo che sia sempre il solito problema, ne parliamo spesso riguardo a questa zona qui, a questo paese, di volontà politica, e da un lato sì, probabilmente delle Nazioni Unite da un lato, e dall'altro anche del governo congolese. Se il governo congolese avesse la volontà effettivamente di risolvere i problemi dell'est del Congo, del Kivu, e quindi di creare un esercito forte che è in grado di combattere queste forze negative dell'est, probabilmente anche per la MONUSCO sarebbe più facile dare questo sostegno. In questa situazione è difficile e non è possibile. Io credo che ci voglia dai due lati una dimostrazione maggiore di volontà di risolvere il problema e di mettere in applicazione il mandato, quello che è di questo mandato, che effettivamente già prevede la possibilità di difendere la popolazione soprattutto. برا برا الحزن البوق والزوارة برا برا الفزن الحزن مبقى آمان. Adesso una piccola pausa, la linea va ai colleghi del GR per le ultimissime, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatori, ancora una buona serata da Giampaolo Musumeci. Quest'oggi vi sto portando in Kivu, in Congo. Chi ci segue lo sa, è un po' un nostro pallino, una nostra priorità, una crisi, è vero, lontana, ma che ha ripercussioni in tutta l'area, la zona dei grandi laghi, la zona dei grandi guai, come qualcuno irriverente potrebbe ribattizzare quella sterminata area che comprende non solo l'est del Congo, ma anche Ruanda, Burundi e Uganda. E apriamo una finestra sull'Uganda, perché alcune settimane fa a Milano abbiamo incontrato il primo ministro ugandese Mbabazi. Dati i recenti scandali, l'Unione Europea ha annunciato di sospendere 300 milioni del budget destinato all'aiuto al vostro paese. L'Uganda sta perdendo la fiducia della comunità internazionale? E se sì, il suo governo cercherà di fare qualcosa per rimediare? Well, first of all, it's true that money which had been given for budget support. È vero che i soldi che erano destinati allo sviluppo del paese non verranno erogati, ma solo parzialmente. non è una decisione UE, ma di alcuni paesi, come Svezia, Irlanda, Olanda. Ci dispiace molto di questo rifiuto da parte di alcuni governi europei, ma vorrei anche spiegare che abbiamo messo su un sistema di controllo per gli ufficiali sospettati del crimine di corruzione o solo di legami con terzi che siano processati per corruzione. E abbiamo sospeso più di 25 alti funzionari inquisiti con l'accusa dello stesso reato. La polizia ugandese sta investigando in maniera completa e corretta, perché siamo determinati a pulire le nostre amministrazioni pubbliche e ad aumentare il livello di autocontrollo all'interno del personale stesso degli uffici pubblici governativi. Stiamo prendendo seri provvedimenti perché uno scandalo del genere non si verifichi mai più, soprattutto all'interno del personale di governo. Per quanto riguarda la reazione dei cittadini contribuenti dei paesi europei che hanno deciso di rifiutare l'aiuto economico all'Uganda, devo ammettere che è perfettamente comprensibile. Ho già parlato ai loro rappresentanti, ho esteso ai governi le nostre scuse ufficiali e spero che potremo comunque collaborare in futuro, anche nell'ottica dell'implementazione di procedure più efficaci per il controllo e la sorveglianza degli ufficiali pubblici. Vorrei passare all'argomento della stabilità in Kivu, regione dell'est del Congo. Ha già risposto alle conclusioni del recente rapporto ONU sulla situazione nella regione, ma potrebbe chiarire di nuovo per i nostri ascoltatori la sua posizione riguardo al presunto supporto del gruppo ribelle M23 in Congo? Yes, there was a report by experts of the UN. Il report dell'ONU accusa Ruanda e Uganda di lavorare insieme a sostegno del gruppo di ribelli congolesi. Ma per quanto mi concerne, questa accusa è assolutamente falsa. È vero che la leadership del gruppo M23 è di base a Kampala, ma di questo il segretario generale delle Nazioni Unite era consapevole, e ne era consapevole anche il presidente congolese Kabila. Il gruppo si è trasferito a Kampala perché il segretario generale dell'ONU e il presidente Kabila hanno fatto specifica richiesta al presidente Museveni che l'Uganda agisca da mediatore. Pertanto abbiamo intrapreso i contatti con i rappresentanti del gruppo. Il governo del Congo, la Conferenza internazionale della regione dei Grandi Laghi, il Consiglio di sicurezza ONU, hanno espresso fiducia nel ruolo di mediazione che può svolgere l'Uganda. La stampa parla del ruolo di Salim Saleh nel rifornimento di armi e munizioni dall'Uganda verso il Congo. Può escludere che vi siano gruppi in Uganda che attualmente stanno dando sostegno di vario tipo al movimento M23? Io posso solo rispondere per il governo. Il generale Salim Saleh è un ex generale dell'esercito ugandese, adesso in pensione. Ma oggi in Uganda non è possibile che un gruppo di persone possa avere accesso ad armi per trasferirle ai ribelli. È assolutamente da escludere. Non so se nel paese ci siano dei trafficanti di armi in grado di rifornire i ribelli congolesi, ma l'accusa che gli uomini dell'esercito nazionale di difesa dell'Uganda trasferiscano armi al movimento M23 è falsa. In Kivu la storia sembra ripetersi da anni. Vi sono vari gruppi ribelli armati, poi alcuni di questi vengono reintegrati nell'esercito congolese, salvo poi riapparire alcuni anni dopo. Quale può essere la soluzione per la stabilità nella regione del Kivu? Penso che in Kivu, come in altre regioni del Congo, dove sono presenti i conflitti civili, la soluzione è il dialogo. L'incontro tra i rappresentanti del governo del Congo e la gente che vive in queste aree di conflitto per mettere insieme sul tavolo le questioni in ballo. È così che abbiamo messo fine alla guerra in Congo 14 anni fa. Qualcuno dice che il Kivu è una regione troppo ricca per rimanere in pace, troppi interessi in gioco. Che cosa ne pensa? Non credo che il Kivu sia una regione così tanto ricca. L'Uganda è più ricco del Kivu. Eppure l'Uganda è un paese stabile. Posso chiedere un suo commento sulla legge anti-omosessualità che dovrebbe essere varata entro la fine di quest'anno? Ho letto di un disegno di legge del vostro parlamentare David Baati. Perché la sessualità dovrebbe essere regolata da leggi? In primo luogo occorre chiarire che secondo la Costituzione dell'Uganda ciascun membro del Parlamento ha la facoltà di scrivere e portare avanti all'ordine del giorno una legge di sua iniziativa. E questo è il caso. La legge sull'omosessualità non è una legge di iniziativa parlamentare o governativa o di partito, ma del singolo parlamentare David Bahati, che la esercita nell'ambito dei diritti che la Costituzione gli attribuisce. In secondo luogo, l'iter legislativo attraversa tre fasi in Parlamento: la prima, la seconda e la terza lettura. E questa legge finora non è andata oltre la prima lettura conoscitiva in Parlamento, per cui si tratta di un ingigantimento della notizia da parte dei media, che hanno pompato sul fatto che l'Uganda è uno stato anti-gay per spaventare l'opinione pubblica, e non capisco per quale motivo. Ma la notizia non è vera. Il disegno di legge di cui stiamo parlando in questo momento è a dibattito in Parlamento. Qualcuno lo approva, altri lo criticano. Se la maggioranza lo voterà, diventerà legge, altrimenti no, come accade nei processi democratici. Quando l'Uganda era ancora una colonia, fu varata una legge contro i comportamenti omosessuali e questa legge è ancora in vigore. Ma non si tratta di una legge emanata dal governo ugandese. Nella nostra società l'omosessualità esiste, ma non è incoraggiata. Non è accettata socialmente, ma nemmeno repressa o punita. I gay in Uganda vivono vite normali, non sono soggetti a leggi diverse rispetto agli altri, e quello che fanno nella loro vita privata rimane privato. Semplicemente non sono incoraggiate o sponsorizzate iniziative pubbliche. No phobia of any kind about them. That's not true. E questa era la voce del primo ministro ugandese Mbabazi, insomma, evasivo, se volete, da un certo punto di vista. Ma la diplomazia africana, la politica africana ci ha abituati in questi casi, insomma, su questioni così spinose, così scottanti, a erigere un muro di gomma. In gioco c'è tantissimo, ovviamente, non solo gli appoggi internazionali all'Uganda, ma l'intero equilibrio dell'area. Vedremo se questo rapporto ONU dispiegherà ulteriormente i suoi effetti, vedremo se Kampala prima o poi ammetterà un qualche sia coinvolgimento, molto difficile, perché anche Kigali, anche Ruanda continua a negare appunto qualsiasi coinvolgimento nella crisi. Donatella Rostagni da Bruxelles, analista politico per EURAC, la rete di ONG europee per l'Africa centrale. La presa di posizione recentemente di alcuni paesi europei verso l'Uganda, ad esempio, e verso il Ruanda, l'uno accusato di spalleggiare i ribelli, ma poi accusato anche di gravi reati di corruzione, diversione di capitali, eccetera. D'altra parte, alcuni paesi europei rispetto al Ruanda hanno congelato aiuti e fondi. Trovi che l'Europa abbia una posizione troppo tiepida nei confronti di Uganda e Ruanda, o, come dire, già sta facendo sentire la sua voce, o dovrebbe fare altro? E più in generale, in ultima istanza, alla fine, perché mai l'Unione Europea dovrebbe interessarsi al Kivu? Beh, sai, l'Europa si interessa al Kivu perché l'Europa è interessata, come una grande parte della comunità internazionale si interessa al Kivu quando si parla di risorse naturali, per esempio. Quindi io non credo che si possa dire che l'Europa non debba interessarsi al Kivu, visto che comunque gli interessi ci sono e le ricchezze del sottosuolo congolese le sfruttiamo noi, le sfruttano gli Stati Uniti, la Cina, il Canada, insomma. Quindi credo che sarebbe molto egoista dire che siccome il Kivu è lontano non ce ne dovremmo occupare, anzi il contrario. Guarda, noi, diciamo, le ONG, quelle che si occupano di fare lavoro politico e di analisi, da un lato abbiamo salutato con molta soddisfazione questo nuovo posizionamento politico di alcuni paesi stati membro dell'Unione Europea e dell'Unione Europea stessa, perché effettivamente queste sono azioni che non c'erano state prima. Il fatto di criticare il governo ruandese apertamente, il fatto di accettare la veridicità del rapporto del gruppo di esperti delle Nazioni Unite e quindi di decidere di congelare il sostegno al budget del Ruanda, per noi sono state effettivamente segni positivi. Sinceramente sono stati segnali che sono arrivati forse un po' troppo tardi rispetto a un certo punto, sai, il rapporto del gruppo di esperti delle Nazioni Unite è stato pubblicato a giugno e per esempio la decisione dell'Unione Europea è arrivata tra settembre e ottobre. Ovviamente per noi è stato troppo tardi. D'altro canto, quello che ci aspetteremmo adesso è una certa coerenza nell'azione, cioè una cosa è dire congeliamo gli aiuti e farlo, ma d'altro canto devono seguire anche delle azioni e devono seguire anche delle dichiarazioni forti contro il Ruanda. Per esempio, quello che ci ha sempre stupito è che l'Unione Europea nelle dichiarazioni non è mai stata in grado di nominare il Ruanda in quanto tale, ma insomma ha sempre parlato di forze negative esterne, ma perché c'è una mancanza di consenso all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea che fa sì che per esempio non si possa nominare Ruanda. Ecco, in questo senso per noi sono messaggi ancora troppo deboli, perché se si denuncia e se si condanna l'azione di un governo bisogna anche avere poi il coraggio di dirlo. Quindi in questo senso speriamo, quello che noi chiederemo da adesso in poi è la coerenza della messa in applicazione, insomma, di queste decisioni e poi la coerenza del messaggio e del dialogo che l'Unione Europea deve avere con questi governi e cercare effettivamente di far sì che il Ruanda e che il governo ruandese interrompa il sostegno a questi gruppi ribelli. Anche gli Stati Uniti hanno cominciato a condannare, insomma, l'azione del Ruanda e dell'Uganda, insomma vedremo cosa succede, perché anche agli Stati Uniti, al governo degli Stati Uniti bisogna chiedere più coerenza, poi sai, hanno anche loro problemi interni di posizionamento rispetto a questa regione e quindi è difficile anche per loro prendere posizioni forti e dure nei confronti del Ruanda e dell'Uganda. Sì, anche perché sono fra i principali sponsor, insomma, di quella parte d'Africa, soprattutto con questi due paesi. Fra l'altro, un primo segnale importante, perché è stata la prima volta qualche mese fa quando gli Stati Uniti congelarono aiuti per $200,000 in armi in favore del Ruanda, cifra piuttosto modesta, però fu un primo segnale politico, insomma, di una certa rilevanza. Piccola pausa, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo è lontano. E l'ultima domanda è con Donatella Rostagni da Bruxelles e riguarda proprio gli Stati Uniti e il rapporto con l'Europa. Hai la sensazione, hai l'impressione che si stia giocando una partita su un campo, diciamo, neutro, un campo terzo, ecco, più che neutro, tra quella che è la storica presenza anche francese, quindi insomma diciamo la vecchia Europa, e gli Stati Uniti, e un'amministrazione Obama appena rieletta che deve decidere quali sono i teatri fondamentali? Fra l'altro il teatro maliano incombe, quello afghano è in via di chiusura, e però insomma quella zona dell'Africa rimane calda. Da Bruxelles, che sensazione hai su questa partita a scacchi a distanza tra Europa e Stati Uniti lì in Kiev? Ma senti, l'impressione, perché poi noi parliamo moltissimo anche con le ONG americane, è che purtroppo la regione dei Grandi Laghi non sia una priorità né per gli Stati Uniti né per l'Europa fondamentalmente, nel senso che non lo è e probabilmente non lo sarà. Perché appunto, come dici tu, ci sono altre priorità, perché gli Stati membri dell'Unione Europea che hanno degli interessi in questa regione sono alcuni e non i 27, certo, ma quindi insomma l'Unione Europea ha anche degli altri interessi. Gli Stati Uniti e l'Europa si parlano all'interno nel contesto del gruppo di contatto, che è una struttura un po' informale che esiste, nella quale alcuni Stati membri dell'Unione Europea e gli Stati Uniti e la MONUSCO, Nazioni Unite, sono presenti, quindi si parlano e si informano. Da queste riunioni non mi sembra che escano spesso la possibilità di agire in maniera coordinata sul campo, insomma, in Congo. Ma questo, come ho già detto anche prima e nel passato, purtroppo deriva molto anche dalla mancanza di volontà del governo congolese di dare, per esempio, alle Nazioni Unite questo ruolo di coordinamento, di accettare che ci sia un coordinamento tra questi diversi attori politici in Congo, perché al governo congolese conviene lavorare più su forma bilaterale che in forma di collegiale con tutti gli attori e i partner riuniti. Quindi vedremo, insomma, secondo me da questo punto di vista tante cose saranno da vedere nei prossimi mesi e tanti aspetti anche dell'azione, dell'impatto delle diverse decisioni prese a livello di Stati Uniti, a livello di Europa dovranno essere viste. Come dicevi tu, è importante, questi segnali sono importanti, il segnale per esempio anche degli Stati Uniti è importante perché segna un cambiamento di politica rispetto a quello che era stata la politica fino adesso. Bisogna vedere secondo me cosa vorrà dire in termini pratici per il futuro e che tipo di impatto ci sarà. La crisi la conosce, l'ha seguita da tantissimo tempo, è un analista americano, Jason Steens, lavora fra gli altri per il Rift Valley Institute e l'abbiamo raggiunto proprio ieri. Jason, dal mio punto di vista il problema principale del Congo è l'organizzazione delle FARDC, cioè delle forze armate, che non sono un vero e proprio esercito da intendersi con standard occidentali. E sei d'accordo che una riforma delle FARDC potrebbe risolvere la gran parte dei problemi o c'è qualcos'altro che si deve risolvere prima in Kivu? Well, I mean, I agree that the Congolese army is probably one of the weakest links in this crisis. Sono d'accordo che l'esercito congolese sia uno degli anelli più deboli in questa crisi, ma riformare le forze armate congolesi potrebbe essere un progetto lungo molti anni. E inoltre la debolezza dell'esercito del Congo non giustifica gli interessi ruandesi nell'area o il supporto dato ad altri attori ed elite locali ai movimenti ribelli in Congo. Per cui credo che riformare l'esercito congolese sia importante, ma non è l'unica cosa su cui incentrarsi, perché davvero potrebbe essere un processo troppo lungo. Hai toccato un altro punto importante, cioè il ruolo giocato da altri due grandi attori in questo scenario, il primo dei quali è il Ruanda e il secondo è l'Uganda, che continuano a negare ogni coinvolgimento nelle azioni dei ribelli di M23. Qualche settimana fa abbiamo intervistato il primo ministro ugandese Mbabazi, che ha continuato a negare ogni supporto a movimenti e ribelli in Congo, senza però escludere che dall'Uganda possa esservi un traffico di armi, eccetera. In questa nebbia generale che avvolge tutto, chi può dialogare con chi per vedere una luce, per tentare di trovare un punto comune da cui partire? Well, I think that's the key point. It's very difficult to negotiate with people who refuse being involved at all. Questo è proprio il punto. È difficile dialogare con soggetti che rifiutano tassativamente ogni coinvolgimento nella crisi. Una delle ragioni per cui si rifiutano di collaborare o iniziare un dialogo è che al momento i governi ruandesi e congolesi non trovano alcun vantaggio. Se infatti avessero calcolato di ottenere un vantaggio nel dialogare con il governo congolese per fermare i ribelli, lo avrebbero già fatto. Nel 2009, per esempio, è andata così. Anche in quel caso, Ruanda e Uganda erano coinvolti aiutando i predecessori del movimento M23. In quel caso arrestarono il capo del movimento NCDP, il Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo, e riuscirono a ottenere un accordo con il governo congolese per fare in modo che il Congresso Nazionale rientrasse dentro le forze armate nazionali. E dato che un accordo del genere sarebbe impossibile da strappare adesso, le varie parti si rifiutano di scendere a compromessi. Questo, a livello diplomatico, rende la situazione realmente complicata. Passiamo al ruolo ambiguo giocato dalla missione MONUSCO, probabilmente la missione ONU più grande al mondo. Devo ammettere di aver notato dei cambiamenti tra il 2008 e il 2011 e dei miglioramenti, ma quando due mesi fa Goma è caduta in mano ai ribelli, allora ho pensato che in realtà non era cambiato proprio nulla. Pensi che la MONUSCO possa giocare un ruolo diverso nell'area? Se sì, che tipo di ruolo? Effettivamente abbiamo visto tutti i fallimenti di MONUSCO nel proteggere i civili in pericolo, che era il motivo per cui la missione è stata dislocata 12 anni fa. Il fatto è che MONUSCO è molto più utile quando funziona come attore politico o come mediatore politico nell'implementare processi di peacekeeping. Ma al momento non vi è in atto alcun processo politico che sia credibile e nel quale le Nazioni Unite possano avere un ruolo. Sin da quando nel 2006 il processo di pace è stato interrotto per via delle continue violenze nell'est del Congo, MONUSCO è rimasto sul campo a fare ciò che sa fare peggio, e cioè proteggere i civili in pericolo. Quindi credo che per dare nuova credibilità a MONUSCO serva dargli un mandato politico nell'ottica di un nuovo processo politico di pace nella regione. Solo così si può dare nuovo credito ad una missione che potrebbe davvero fare la differenza. Ho appena finito di leggere il tuo libro Dancing in the Glory of Monsters e la cosa più folle è che la storia sembra ripetersi nello stesso modo ogni 2-3 anni in Kivu. Non vorrei sembrare retorico o peggio patetico, ma credi che potremo vedere qualcosa di diverso in quella regione negli anni a venire? Well, I think certain things will probably not change in the near future. Penso che alcune cose siano difficili da cambiare nei prossimi anni. La questione con cui abbiamo cominciato a chiacchierare, e cioè la debolezza dell'esercito congolese, è un problema profondo, per cui occorre un processo di risanamento lungo. Anche le amministrazioni pubbliche soffrono della stessa profonda debolezza. Finché lo Stato rimarrà così debole e inefficace, ovviamente sarà facile per gruppi ribelli armati prendere il controllo di territori e villaggi, ma anche per gruppi di soli 50 o 60 uomini. Ecco, queste non credo siano cose che possano cambiare nei prossimi anni. Un cambiamento che però si è già verificato e che è importante sottolineare è la critica molto più dura e severa rispetto al passato mossa contro il Ruanda per via del supporto dato ai ribelli congolesi. Ed è un dato importante perché la critica più dura viene proprio da Stati Uniti e Regno Unito, che sono stati sempre i principali sostenitori del Ruanda a livello internazionale. Non so se questo dato possa sancire un cambiamento nello scacchiere, ma credo comunque sia importante da evidenziare. Inoltre, i ribelli dell'FDLR, le Forze Democratiche di Liberazione del Ruanda, che finora sono sempre stati il movente per il coinvolgimento del governo ruandese nella crisi del Congo, si sono ridotti molto nel numero rispetto al passato. Sono ancora di base nell'est del Congo, ma sono rimasti in circa 1.000-2.000 uomini. Ora rimane da vedere se questi cambiamenti saranno sufficienti a prevenire ulteriori escalation di conflitti nell'area. Future escalation from happening. Per saperne di più sul lavoro di Jason Stearns, Congo Siasa è il suo blog seguitissimo, dove ci aggiorna grazie alle sue fonti, insomma, molto ben addentro anche alle istituzioni governative dei paesi nella zona dei Grandi Laghi. Lo postiamo anche su Facebook. Tempo scaduto, gentili ascoltatori, non mi resta che ringraziare voi per essere stati all'ascolto, Nadia Zammiti per aver scritto con me questa puntata, Gianmarco Ferronato gli ha dato la musica e il ritmo giusto. Noi ci sentiamo l'anno prossimo. Buona serata da Gianpaolo Musumeci.